la sera pareva ci volessero cantare, per ogni stella che scendeva a mare scriveva in cielo addio felicità. Kiss mi viene a ti, io te vorrei passare, io portannete con me, che taggio di taffa, sono innamorata di te, perché vasana mai così, tu mi imparata a ti, di cose sconosciute, capri sorriente sta luna, se ne so chiuda con te, tu sapendo non torna, che mi imparata a fare sti frasi forastiere. Amore che dea felicità, che m'è imparata a fare. Capri sorriente sta luna, se ne so chiuda. Frase forastiera.